Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera a tutti, buonasera da Maurizio Calzavara, buonasera da Michele Tosoni in regia. Questo oggi è mercoledì 9, il mercoledì delle ceneri, ma stasera abbiamo Rube che viene direttamente da Verona per presentare il suo nuovo album. Il quarto album, vero Rube? È il quarto album. Come stai? Bene? Tutto bene, grazie. Fatto un buon viaggio a Verona, penso di sì. Un viaggio, un piacere essere qui in questo posto così accogliente, quindi sono perfettamente a mio agio. Poi all'inizio scaldarsi è sempre un po' difficile, però è come un po' essere a casa mia, anche perché sono già venuto una volta. Esattamente. Quindi conosco il luogo. Dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che l'incontro con Rube era preordinato un mese e mezzo fa, poi per motivi diversi è saltato, ma siamo riusciti a riprenderlo. Ci tenevo particolarmente. Era molto importante, quindi siamo arrivati, siamo qua stasera per presentare questo quarto album, che è l'album del decennale, Rube. E non è mica una cosa semplice, è importante. Sì, mi ricorda tutto il tempo che è passato negli studi di registrazione, perché è il decennale della mia attività discografica vera e propria, perché poi ho cominciato a suonare chiaramente prima. Però nel 2000 mi sono sognato di fare il mio primo disco, e quindi adesso festeggiamo i 10 anni con questo quarto lavoro, e quindi mi viene in mente un po' tutto il tempo passato negli studi di registrazione, a limare, fare, dire, disfare, e poi tutta esperienza che si è accumulata, che ho cercato poi di convogliare in questo nuovo lavoro. Dobbiamo dire una cosa, parlavamo a microfoni spenti io e Rube, che questo è un album ambizioso nel senso positivo del termine, è un album complesso da ascoltare in modo attento, pezzo per pezzo, lentamente, per assaporare le cose un po' nascoste, perché ce ne sono delle cose nascoste musicalmente parlando. Sì, io me ne sono accorto già nel momento in cui scrivevo le canzoni, perché in realtà ho cominciato a buttare giù i primi pezzi e vedevo che era un lavoro un po' tra virgolette strano, non sapevo esattamente dove mi portava. E poi nel tempo ho accumulato, diciamo, le canzoni che compongono il disco, le ho guardate e ho detto: ma che lavoro strano che è questo qua effettivamente, ma non lo so che cosa faccio, lo faccio o non lo faccio. Poi è diventata un po' una sfida, nel senso capisco che è un po' difficile, però lo faccio lo stesso perché voglio togliermi la soddisfazione. Quindi questo lavoro un po' tutte queste cose, cioè è una sfida, una soddisfazione averlo realizzato. Anch'io quando lo sento ancora adesso dico: ma tutto sommato mi sembra sempre una cosa un po' fuori onda o fuori dalle righe. Ecco, forse l'espressione giusta può essere proprio fuori dalle righe. Non è esattamente inquadrato in un qualche cosa di diciamo noto o più, potrei anche dire rassicurante. Ecco, qui sono fuori da questo campo, sono nel territorio dell'ignoto e del non rassicurante, e anch'io quando sento le canzoni delle volte mi stupisco anche di quello che ho scritto. Evidentemente però era un momento in cui dovevo esprimere determinate cose un po' difficili, un po' complesse anche per me, e forse posso pensare che sia nato in un momento di crisi, però forse lo vado a realizzare adesso rispetto a quando ho scritto i brani. Certo, assolutamente personale, quello è importante, quindi un momento assolutamente personale. Noi andiamo spesso fuori delle righe a Rock Wave, quindi non siamo consci in determinati procedimenti, andiamo avanti. Ti dicevo, mi sento a casa. Ecco, infatti. Perfetto, benissimo così. Quindi il quarto album, l'album dei 10 anni della carriera, è un titolo un po' particolare, Il rogo delle vespe, della vespa, pardon. Perché Il rogo della vespa? Perché è un disco con concept album, quindi un collegamento pezzo per pezzo, vero Rube? Sì, io ho sempre cercato, almeno in questo disco e anche nel disco precedente, di collegare le canzoni tutte a un tema, anche perché da un punto di vista compositivo è un po' più facile, nel senso che scrivi una canzone, secondo te vedi che funziona, se hai in testa un tema è facile che scrivi la seconda, la terza, la quarta, perché diventa un po' come le ciliegie, ne mangi una e ne vuoi mangiare anche gli altri. Se non c'è un'idea chiara in testa di base, diventa anche il processo della composizione molto più complicato e forse anche più faticoso, perché ogni volta ti attacchi a un'idea diversa e devi alla fine cercare di far combaciare in qualche modo tutte queste idee. Alla fine un disco è come un quadro, è un insieme di elementi che però devono avere un senso messi insieme. E quindi se c'è un'idea portante è più facile la composizione, e poi penso è più interessante anche il lavoro finale, come viene fuori, insomma. Certamente. Allora iniziamo con una cosa abbastanza tradizionale, tra virgolette, un pezzo pop abbiamo scelto, che è il singolo, il primo singolo dell'album, che noi abbiamo fatto sentire parecchie volte durante i mesi scorsi. Questa schiuma, perché la schiuma? È qualcosa di gaberiano oppure no? Ma non credo tanto gaberiano in questo senso. Io tra l'altro la canzone di Gaber, e devo confessare, non l'ho mai sentita. Non l'hai mai sentita? Non l'ho mai sentita. So che c'era questa canzone, la conosco come... Lo shampoo, lo shampoo. Esatto. Sì. E io sono partito da un'idea molto semplice. Volevo fare una canzone anche per me, nel senso che quando torno a casa magari dal lavoro, eccetera, volevo avere qualcosa che mi rilassasse, anche da mettere in macchina, certo, per la lungo la strada per andare a casa. E quindi l'ho scritta innanzitutto per me, per rilassare me, e poi lo scopo era rilassare anche le altre persone. E quindi è una canzone che parla di sensazioni positive, non tanto di concetti, non tanto di sentimenti. Le canzoni solitamente parlano o di concetti o di sentimenti. Questa è una canzone che parla di sensazioni, e mi serviva anche perché all'interno di un disco particolarmente anche tra virgolette pesante come atmosfera, eccetera, mi serviva un momento anche così di positività, sì. E l'ho coinvogliato in questa canzone, in tutto l'arrangiamento, che poi esprime questa sensazione di sollievo la fine della giornata, per dire: oh, è finita, finalmente mi rilasso, mi lascio alle spalle tutte le cose negative che ho accumulato. Tra l'altro va benissimo per me anche per oggi, perché anch'io oggi ho accumulato tensioni, pressioni di tutti i tipi, e allora sentire la canzone adesso mi rilasserà a mia volta. Questa schiuma la sentiamo assieme adesso. Gli occhi al soffitto, disteso, il mio giorno è andato. Me l'hanno già detto, sei arrivato col fiato finito. Soffice pura, mi togli quanto resta del giorno. Tu calda sicura, sprofondo nel tuo manto, ritorno a te. Schiuma. Al mattino con una stretta al collo, corro e poi corro, ma cado un metro dal mio traguardo. Testa sul muro, non ottengo quello che voglio. Casa ritorno e piano al tuo tocco mi collo a te. Schiuma. Non sei, non sei. sprofondi in vuoto accogliente e mi circondi con fare ammiccante. Mi sprofondi in vuoto accogliente. Blu Radio Veneto, bella come non l'hai mai sentito. Blu Radio, Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Stasera, Ruben, abbiamo anche le webcam accese, quindi grazie al lavoro di Roberto Baldi, stasera ti possono inquadrare, ti possono vedere i tuoi fans. È fantastico. È fantastico questo. Per me, per loro non so poi se mi guardano la sensazione, però per me è piacevole, perché così so che sono coccolato, ecco, dagli sguardi appunto di chi mi sta vedendo. Parliamo un momento di Schiuma, questo singolo, il primo singolo tratto dall'album, questa voce femminile, questo impasto, questa costruzione, questo pop... Pop tra virgolette, non è proprio un pop, giustamente mentre il microfono era spento Ruben diceva è questo andamento un po' soul, perché tu ami il blues e il soul. Sì, senz'altro, alla fine poi ce l'ho infilato anche in questo brano, perché ho cercato di fare delle sonorità che comunque non fossero spiccatamente italiane. Io ci sento molto un po' quegli arrangiamenti anni 60, sì, soprattutto come si muove un po' il basso elettrico, anche la batteria, c'è l'organo Hammond che si insinua da tutte le parti, suonato da Pippo Guarnera. Ecco, cominciamo a ringraziare i musicisti, perché se lo meritano, hanno fatto uno straordinario lavoro come sempre. E poi c'è l'arrangiamento degli archi che fa la sua parte, perché era un po' una mia fissa, volevo un brano con gli archi, e con sono violini e violoncelli, tutto arrangiato dal mio contrabbassista, che poi ha suonato il basso elettrico in questo pezzo, che è Carmelo Leotta, che ha studiato tutto un arrangiamento per, proprio appositamente per questa canzone, su cui abbiamo lavorato, discusso, eccetera. Era proprio una mia fissa che ho sempre avuto da quando ho composto il brano, di avere gli archi che suonassero nella canzone, e poi quando me li sono sentiti, per me è stata una grande soddisfazione, anche perché mi piaceva che si sposassero con tutto il resto dell'arrangiamento. Quindi alla fine, dal mio punto di vista, lo sento non tanto come proprio il classico pop italiano, fanno dei suoni completamente diversi rispetto a quello che ho cercato di realizzare io in studio, e quindi ritengo che sia comunque un brano che mi esprime bene, anche se non è magari così rock più duro come altre canzoni che sono presenti nel disco. E la featuring è Francesca Petramante Dragoni, la ragazza che canta con te. Esatto, è la leader del gruppo Petramante, che è un gruppo di Orvieto che ho conosciuto tramite MySpace, perché ancora tempo fa, quando è sorto questo social network, ha dato senz'altro una gran mano alla musica, penso, in generale, perché tramite MySpace sono nate parecchie collaborazioni, non soltanto quelle che ho installato io, ma ho visto anche che altri hanno iniziato a collaborare tramite MySpace, mettendo insieme dei progetti anche ambiziosi, e da tantissimo tempo conoscevo questo gruppo, e poi ho contattato appunto Francesca, ho proposto il brano, gliel'ho mandato, lei l'ha sentito, e quindi appunto è stata contenta di cantare, tra l'altro buona la prima in studio. Certo, ecco, quello è importante, un take veloci, insomma. Sì, tutti i featuring che sono nel disco in realtà sono tutte buone la prima quasi. Ah, perfetto. I cantati, abbiamo tenuto proprio l'emozione del momento, insomma. Ottimo, ottimo, quindi è una cosa molto positiva, molto difficile fare una take quasi al primo ascolto, cioè al primo momento, al primo impatto, è una cosa... Ci vuole anche un po' di fortuna, bisogna imboccare il momento, perché poi magari questo aspetto non viene tanto tenuto in considerazione, cioè realizzare un disco è anche una questione, al di là della bravura, delle capacità tecniche, dello studio, delle macchine, di tutte queste cose qua, c'è anche un fattore fondamentale che è proprio la fortuna, cioè quel giorno lì arrivi, se sei in giornata... Tiri via fuori qualche cosa di emozionante. Certo, certo. Non sei in giornata, magari fai anche 10 take non della voce e non tiri fuori assolutamente niente. I dischi hanno le loro stelle nel cielo che li guidano, e si spera che li guidano bene. Però c'è proprio questo aspetto anche che è sempre presente un po' nell'attività artistica, cioè il cogliere l'attimo, quando è buono. Come datazione questo pezzo è più vecchio o meno vecchio degli altri? In realtà probabilmente hai colto una cosa, è più vecchio degli altri. Ho capito. È più vecchio nel senso che in realtà è una sorta quasi di recupero che io ho fatto. Avevo già le canzoni del disco, però cercavo un qualche cosa che servisse anche un attimo a stemperare, anche a lanciare poi il lavoro, a renderlo accattivante. E poi ho recuperato questo brano anche perché volevo sempre realizzarlo, insomma, ce l'avevo nel cassetto. Ho detto: è il momento buono, o lo faccio adesso o non lo faccio più, lo registro con gli archi, con tutto quanto. Ed è il momento appunto di buttarlo fuori, però in realtà risale a tempo prima, ecco. Però ci stava bene perché parla della fine di una giornata, e siccome il tema del disco è la fine, ho detto è perfetto, parla di una fine piacevole perché è la fine dello stress. Certo, la fine di uno stress, di tante ore di stress, che esatto. Poi con la schiuma che la schiuma spazza via e pulisce, e quindi crea tutta una nuova atmosfera. Ok, sono le 22.35, sei pronto a fare il primo pezzo live? Ma io mi butto. Ecco, quindi adesso Ruben prende la chitarra si acustica. Si butta sulla chitarra. Sulla chitarra, bella chitarra. Beh, io amo la chitarra, quindi che mi ci butti sopra non è tanto strano, sono quelle cose che possono effettivamente succedere. I musicisti amano così tanto i loro strumenti. Che spaccano gli strumenti, no? Sì, dall'affetto. Dall'affetto, sì. Okay. Cosa suoniamo, Ruben? Allora, io suonerei il rogo della Vespa, che è la brano... title track. È la title track, che è un pezzo importante, fondamentale per capire l'andamento del disco. È proprio il manifesto, direi. Ok. Quindi vado direttamente Perfetto. Su quella. È il giorno più buio del mondo, è la notte più lunga del sonno, è il vento che non muove foglia, è il castigo che Dio non voglia, è il grido che muore in gola, è la folla sempre più sola, è il bimbo che manovra il cannone, è il generale che muove l'aquilone, è il poeta che sa far di conto, è il politico che si fotte il mondo, è il giornalista che si intervista, è il soldo che corrompe l'artista, è la fine di quel poco che resta, è il rogo della Vespa. C'è buono a vendere magliette, è l'etica delle mazzette, è il terzo millennio che avanza, è la tomba di ogni coerenza, è la politica da cori da stadio, è lo scorno del vivere gramo, è l'infinito oziare nel nulla, umane che si trastulla, è la fine di quel poco che resta, è il rogo della Vespa. Di tutte le certezze stantie, è la fine delle buone intenzioni, è la fine delle rivoluzioni, è la fine di quel poco che resta, è il rogo della Vespa. Ah. Spot. Pubblico e privato. Le interviste di Paola De Simone. Sono Paola De Simone e vi aspetto tutte le notti, dal lunedì al venerdì, con Pubblico e Privato, incontri con personaggi del mondo dell'arte, un'ora in cui andremo ad approfondire la conoscenza di protagonisti e comprimari, sempre con una luce accesa sulle vicende umane di ognuno. Dal lunedì al venerdì, Pubblico e Privato, le parole della notte in blu. A mezzanotte, su Blu Radio Veneto. Blu Radio Veneto. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua, diretta rockway.altervista.tk, quindi ti possono vedere stasera, Rube, ti posso sentire, ascoltare, e perché le espressioni, i sentimenti si avvicinano, si fondono praticamente. Cosa dici? Sì, e questo io non riesco a scindere le due cose, cioè sentimenti ed espressioni tendenzialmente vanno su un unico binario per quanto mi riguarda, ma credo che sia così per chiunque poi esprime se stesso tramite la musica. E molte fendenti hai tirato su questo pezzo. Sì, a differenza di quell'altro, che è tutto morbidone, schiumoso, accogliente, come tu hai giustamente notato, qui invece sono fendenti, mazzate, sassate e quant'altro ad ogni verso, in sostanza, lo volevo proprio così. E per quello è la title track, ha un motivo per sì, essere. Sì, picchiare subito dall'inizio, il concetto era quello, schiuma infatti viene dopo, viene un attimo per tagliare l'aria, come si suol dire, però all'inizio bisognava dire un po' da dove è nato tutto il disco, perché poi gioca su questa idea della fine che io ho così realizzato, immaginato, vedendo questo nido di vespa andare a fuoco, e così questo rogo mi ha ispirato proprio l'idea della fine. Ho detto facciamo un disco sulla fine, poi magari dirlo in radio sarà complicato perché tutti sentono sta cosa qua e magari viene voglia di cambiare il canale, però ho cercato di rendere questo discorso della fine interessante, vista da vari punti di vista. È interessante anche il discorso che è stato messo come primo pezzo. Di solito la title track non è usuale metterlo come primo pezzo, di solito come primo pezzo si mette il singolo, che non è assolutamente il titolo del disco, quasi, facciamo il 90%. Sì. Tu invece hai messo nella title track il primo pezzo, cioè per dare subito la scossa. Sì, sì, beh, dopo 10 anni ho detto qui è il momento di mettere subito le cose in chiaro. In chiaro. E si doveva fare subito dall'inizio, senz'altro, quindi tutto il resto è una specie di conseguenza di quello che si va a dire nella prima canzone. Poi ci sono dei temi anche che vengono ripresi anche proprio a livello del testo nelle altre canzoni. A un certo punto c'è nella canzone l'erotomane che si trastulla, ecco, poi vedremo come questo tema va avanti in un'altra canzone, quindi poi ci sono queste sottotracce che si inseguono nel corso del disco, che poi devo dire la verità io non è che ho riflettuto molto nel fare queste canzoni per rendere proprio questa idea, è venuto fuori da solo, cioè queste certo. sottotracce si sono infilate per i loro affari e il disco a un certo punto ha preso la forma che ha voluto lui, ma questo credo che valga un po' per tutti, perché poi quello che si fa vive di vita propria già nel momento in cui è realizzato, non occorre neppure metterlo su disco, appena un attimo la canzone è finita su carta o sulla chitarra, poi già comincia a vivere in realtà di vita propria, insomma. Io penso sempre che chi scrive è una sorta di tramite, un tramite di qualche cosa che è nell'aria, che è nella cultura del suo tempo, nella cultura del momento, e quindi non fa altro che recepire queste cose e le traduce in un'altra forma. Però penso a me, come anche posso pensare che altre persone che fanno musica lo sono, una sorta di medium. Ecco, sì, ho capito. L'idea del medium. Certo, sì. Certo. Noi cerchiamo di tenere le antenne un po' sveglie, quello che passa entra dentro e poi lo ributtiamo fuori nelle forme più strane, si spera anche così piacevoli o comunque interessanti da ascoltare. Certamente. Ok, salutiamo il nostro direttore artistico che è Alberto Prisco, grazie a lui stasera sei qua, che organizza i nostri live. E salutiamo anche tre ragazze che ci sentono spesso, sono la Nicoletta, la Silvia e la Patrizia, che sono le nostre fans, che sentono soprattutto in live, oltre a tutte le altre trasmissioni della nostra emittente, chiaramente. Adesso io proporrei, non so se sei d'accordo, un altro pezzo da disco e poi continuiamo con i live. Perfetto. sere e faccio i miei conti sul quaderno della vita a quadretti. Dare a avere appunto gli incontri son giorni sempre più stretti. Il sorriso a volte mi ride, battute un poco stonate e quelle che vedevo come sfide son giornate al cesso buttate. E tu come fai a tirare fino a sera? E tu come fai a dire che sei vera? Ti addormenti con in bocca una mesta preghiera, io sveglio con in bocca una vita non vera. Quante volte non m'hanno creduto, confesso non le ho mai contate, e le volte che non ho taciuto non mi sono di certo mancate. Quel denaro che non ho avuto senza rimpianto l'avrei sperperato. Quando è stato che mi sono perduto, ho ascoltato e mi son ritrovato. E tu come fai a tirare fino a sera? E tu come fai a dire che sei vera? Ti addormenti con in bocca una mesta preghiera, io sveglio con in bocca una vita non vera. Nel mio brodo mi son crogiolato, quante volte ci sono cascato, ben mi è stato qualcosa imparato. Questo canto per me nessun altro, se non ha vissuto da leone un momento. Questo canto per me nessun altro, se non ha vissuto da idiota un secondo. E tu come fai a tirare fino a sera? E tu come fai a dire che sei vera? Ti addormenti con in bocca questa preghiera, io sveglio con in bocca una vita non vera. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Stiamo piacevolmente conversando con Rube, parlando del suo album. Citiamo anche gli album precedenti, ce l'ho qua davanti, possiamo citarli. Sì, facciamo una storia. Vediamo se ti ricordi. Nel 2000? Nel 2000 Biondo Accelerato. Che era l'inizio della grande avventura. Il Big Bang. Insomma, quello che è stato, comunque è stato l'inizio dell'avventura in studio di registrazione, quindi il momento in cui ho cominciato a fare un po' di esperienza in questo campo qua. Poi la Musa Elettrica del 2004. La Musa Elettrica nel 2004, dove abbiamo cercato un approccio un po' diverso perché è stato molto più suonato in studio, molto più improvvisato. Già mi rispecchi anche di più rispetto al primo lavoro, perché cominciavo già ad avere le idee un po' più chiare. Certamente, poi siamo arrivati al disco di qualche anno fa, Da qui non si vedono le stelle. Un turning point, lì è stato un momento fondamentale, perché mi sono ho cominciato ad autoprodurmi in modo completo. Prima avevo un coproduttore e quindi da quel punto di vista i suoni risentivano un po' della mentalità un po' diversa di entrambi. Invece con Da qui non si vedono le stelle proprio ho preso in mano la responsabilità di realizzare il tutto, però le ho anche realizzato in tutto e per tutto come l'ho pensato io. Perfetto. Quindi per la prima volta c'è stato un disco che mi ha rispecchiato completamente. Questo è il 2008, nel 2011, perdon, questo album di quest'anno ti rispecchia al 100% perché è produzione artistica totale tua. Cioè, hai fatto tutto, un disco complesso, difficile, di tanta fatica. Sentiamo, parliamo un momento del pezzo che abbiamo appena ascoltato con quel violino delizioso di Michele. Sì, è una canzone che io amo molto e che ritengo sia importante nell'economia del disco, perché è già dal titolo direi, dare avere. Io mi sono proprio ispirato al bilancio, quello proprio il bilancio che fanno le aziende, certo, per vedere l'attivo e il passivo, e ho trasposto questo discorso sul piano personale, cioè tutti noi penso, forse chi lo fa a fine giornata magari, forse a letto prima di dormire, ripensa la giornata e fa il bilancio. Ecco, io non lo faccio mai alla fine della giornata, perché quando vado a letto chiudo gli occhi e dormo, sono distrutto, non ho il tempo di riflettere, di meditare. Nemmeno a sabato, Michele? No, neppure a sabato. Però magari faccio il bilancio durante la giornata, però non della giornata, ma dei mesi scorsi, degli anni scorsi. E alla fine la canzone è un bilancio così personale, che riguarda comunque anche il mondo della musica, la mia esperienza come cantautore, diciamo, in generale nel mondo delle sette note, e quindi da questo punto di vista ho proprio scritto la canzone in questo modo qua. Volevo un attimo confrontarmi con diciamo i miei scacchi, cioè le cose che vanno male, le cose che ti lasciano comunque un fondo di amarezza, per cui puoi dire sì, ho anche investito tanto nella musica perché l'amo molto, però alla fine che cosa mi è rimasto in mano? In alcuni momenti pensi non mi è rimasto in mano assolutamente niente. O poco o niente. Hai questi momenti qua chiaramente così di scoramento, che poi si cerca sempre di superare. La musica aiuta poi molto, perché ti porta sempre comunque a superare i momenti difficili, perché poi è una buona compagna. Dicevamo prima della chitarra, a me capita ancora, nonostante suoni la chitarra da tanto tempo, vedo che se la prendo in mano e magari la giornata è stata uggiosa, beh, dopo 5 minuti che suono cominci già a entrare in un'altra dimensione, cominci ad accettare meglio le difficoltà magari delle ore passate prima, e quindi la canzone è proprio questo, è questo bilancio che io faccio con me stesso. E ho voluto inserire nella canzone il violino di Michele Gazic, bravissimo, infatti proprio è uno straordinario musicista bresciano, collaboratore innanzitutto di Massimo Bubola, sì, per tanti anni, poi adesso ha un progetto suo, La Nave dei Folli, certo. Collabora con cantautori americani, con Marco Olsen, Michel Schock, ogni tanto io lo sento e mi dice ma sono tornato dalla Germania, dagli Stati Uniti, sta girando dalla Francia, sta girando un po' dappertutto con le sue attività di musicista e i suoi progetti. E devo dire che ho pensato a lui nel momento stesso in cui ho scritto la canzone, perché solitamente magari l'arrangiamento ci pensi dopo, prima butti giù la struttura, le parole, gli accordi, la melodia eccetera, poi un secondo tempo magari già quando sei in studio pensi agli strumenti che vuoi far suonare nel pezzo. In realtà qui mi è capitato che proprio mentre la scrivevo dicevo qui ci vuole il violino di Gazic che deve fare così, per colà, già ce l'avevo in testa, e poi chiaramente l'ho chiamato e sono stato molto contento che lui ha aderito al progetto, è venuto in studio, abbiamo passato un bellissimo pomeriggio a registrare il suo violino, e quindi è stata senz'altro una bella esperienza. E poi lui stesso mi ha detto ho l'impressione che ci sentiremo di nuovo, infatti poi sono passati tra la registrazione e quant'altro 2 anni e ci stiamo sentendo, posso dire, in questi giorni per altre cose che parlando, quindi effettivamente è stato un buon profeta. E credo che poi sul violino ha proprio dato diciamo, il tocco distintivo, l'ha colorato come si doveva colorare il pezzo, che chiaramente lui come abbiamo detto è molto bravo, è molto, ha un violino, lo suona in modo particolare, in modo molto suo, possiamo dire questo senz'altro, ma proprio il suono che ha, tra l'altro mi spiegava che questo violino che ha parecchio antico ha proprio una sua storia, diciamo anche così vicissitudini, che forse l'hanno portato un po' come tutte le persone che ne hanno passate tante, forse hanno qualche cosa da dire, certo. Forse è un vantaggio nello svantaggio, cioè dopo che hai passato tante esperienze così positive e negative hai qualche cosa da raccontare. Se uno non passa mai niente neanche di negativo, poi alla fine ha anche poco da dire, quindi diciamo quindi... l'aspetto positivo del negativo è che poi hai qualcosa da raccontare. È vero, è questa è una cosa molto decisamente indovinata. Ok, 22:54, io proporrei, Rube, un altro pezzo live, cosa dici? Benissimo, allora io mi lancio in una cosa un po' strana. Dimmi. Che vado a fare, ed è la prima volta che la faccio in radio in realtà. L'ho suonata dal vivo, è sempre una canzone del disco. Che canzone poi è un'espressione in questo caso, se vogliamo, un po' discutibile, nel senso che è una specie di recitato. Che un reading, possiamo dire. Sì, è una specie di reading su un personaggio che passa le serate in modo, diciamo, un po' particolare. La canzone, così si capisce tutto quanto, siamo comunque in fascia protetta, come io amo ripetere quando, certo, faccio i live, protetta, è l'ora, sì, della fascia così, cioè, anzi fuori dalla fascia protetta, la fascia protetta è quella dove ci sono i minori in ascolto, siamo fuori dalla fascia protetta, quindi possiamo lanciarci in cose particolari e eventuali. La canzone si chiama Pornomane numero 2, poi spiegherò anche perché è numero 2, okay. Però lascio la curiosità alla fine, magari. Perfetto. La notte non ha sonno e fa le ore piccole, si stende davanti alla TV, pensa chi e cosa ha visto. Poi becca il film sulla privata e rimane sempre in tema. Lei viene avanti, guarda dritto in camera, con finta nonchalance. Poi guarda lui e attacca con l'avance. La camera inquadra dove non dovrebbe e un po' del fascino si perde. L'attrice non è male per lo standard del genere. Quello dove lo hanno pescato, chi lo sa, non scatenerebbe una linfomane. Iniziano le danze e avanti così, fino alla prossima scena, fino alla prossima nottata. Fino alla prossima. Blu Radio Veneto. Blu Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Possiamo dire un blues strozzato, cosa possiamo dire? Senz'altro, proprio è un blues notturno, però con un effetto di strozzamento. Di strozzamento. Perché poi il soggetto è ripiegato su un divano e quindi proprio incassato. C'è questo effetto, probabilmente anche il diaframma si schiaccia. Certo. Questo effetto di strozzatura in effetti c'è. Ok, 22:58, sai Rube, a quest'ora, quasi alle 23, c'è il giochino, ti ricordi il giochino? Sì, ecco, sì, adesso rammento. Disco vediamo se i dischi sono cambiati rispetto a qualche anno fa, i dischi da portare su un'isola deserta. Sì, credo che avevo fatto all'epoca una lista molto così, tra virgolette, tradizionalista, e forse magari adesso sul momento la cambio completamente, perché ne avrei giusto. Tanti da portare nell'isola. Facciamo tre solamente stasera, dai. Ah, proprio tre? Quanti ne vuoi dire? Ma andiamo a cinque. Facciamo cinque, abbiamo tempo. L'imbarazzo sarebbe tremendo. E non in ordine di importanza. No, quello che vuoi te, assolutamente. Andiamo a caso proprio. Ok. Metterei qualche cosa di italiano e qualche cosa di straniero. Quelli italiani, cominciamo con l'italiano. Guarda, adesso proprio mi è venuto in mente proprio adesso, siccome l'abbiamo citato prima, Amore e guerra di Massimo Bubola. Ah, e ecco. Ti dico perché. Perché citi Bubola? Perché? Oltre che sia veronese. Ma proprio questo disco, perché spero che qualcuno, chiaramente, al di là anche dei fan di Bubola, ha avuto occasione di ascoltarlo, ha un suono che è strepitoso. Penso che è uno dei primi dischi italiani che suonano in chiave rock, ma con una sonorità credibile anche sul piano internazionale, rapportata a quello che fanno i gruppi rock americani. E veramente io la prima volta che l'ho sentito sono rimasto molto impressionato proprio dal sound. E al di là del fatto che le canzoni sono tutte belle, perché poi certo, raccoglie molte canzoni di Bubula, che sono comunque state rifatte dagli studio per l'occasione. C'è una versione strepitosa, ad esempio, di Spezzacuori, che io amo alla follia, e anche la versione che fa di Andrea, il pezzo che scrisse insieme ad Andrea, è veramente molto bella. E quindi se qualcuno mi dice, mi fai sentire qualche cosa di rock in italiano, chiaramente con influenze anche di tipo folk e comunque cantatoriale, io gli direi senti un attimo questo disco, perché qua il sound l'hanno fatto in Italia, però ci sono riusciti. Quindi proprio a livello di sound comincio subito con citare Amore Guerra di Bubula sul momento ad ispirazione. Sentito in sottofondo, l'abbiamo, senti. Ecco. Bubula, cioè, Michele ha subito scovato. L'ha pescato e l'abbiamo trovato. Secondo pezzo, secondo brano, secondo album. Secondo album, andiamo con qualche cosa di straniero. E una cosa recente che ho ascoltato, mi è piaciuta tantissimo, è In Rainbows dei Radiohead. Un disco che mi è piaciuto molto. Questo ce l'hai, non ce l'hai mica, ce l'hai io. Lo pesca. Adesso lo peschiamo. In Rainbows lo pesca, secondo me. Perché secondo me nel disco in questione c'è proprio il meglio un po' dei due mondi, dei primi Radiohead per un certo gusto anche melodico che riaffiora, e poi tutto lo sperimentalismo degli ultimi dischi. E a dire la verità, così quando loro hanno preso questa piega estremamente, diciamo, focalizzata sullo sperimentale, sul momento io sono rimasto un attimo perplesso, perché effettivamente Kid A, che è stato un po' il disco che ha fatto partire il tutto, certo, ha lasciato, penso, molta gente un attimo perplessa. Sì. Poi Esaltato, un disco chiaramente che ha convinto tutti, anche perché effettivamente delineava quasi una strada nuova, non solo per il gruppo ma per la musica anche in generale. Però è, diciamo, una strada un po' difficile anche da seguire. Quando ho sentito In Rainbows ho pensato una cosa: si sono ricordati un po' della musica in quanto tale, che mi sembrava per certi versi avesse un po' accantonato nei dischi precedenti, perché una cosa sono i suoni, però poi la musica è fatta anche di note, certo. che vanno su e giù dal pentagramma e cose di questo tipo, ecco, che sono importanti. Io ritengo sempre che siano importanti. E te l'abbiamo in sottofondo. A proposito, sai che è uscito un nuovo disco di Radiohead? Sì, non l'ho ancora ascoltato. Ecco, io l'ho sentito e ritorna al discorso di Kid A. Ah, è ancora e quindi più sperimentale, duro. Molto, sono 6 o 7 pezzi decisamente sperimentali. Quindi Thom Yorke gioca tra Rainbow e Rainbow, che era un disco di ritorno di cose abbastanza fruibili, tra virgolette, sì. mentre questo nuovo, questi 7 pezzi, sono assolutamente ritornano sperimentali. Ritornano nello sperimentalismo. Lo andrò ad ascoltare senz'altro, perché poi è un gruppo che io seguo, ho sempre seguito fin dagli inizi, da quando sono usciti. Quindi... quando sono esplosi. Sì, sì, sì. Anche se Vasco ne ha fatto una versione non molto azzeccata, cosa dici? Ti dirò, ho sentito qualche cosa in un supermercato e le orecchie mi si sono tappate da sole. Ecco. Hanno avuto questo, ha senso, far così, questo senso di rigetto, però lui è libero. È libero di fare farlo, quello che vuole, però ahimè le nostre orecchie reagiscono a loro volta. Ok, terzo momento musicale che hai scelto. Andiamo, perché proprio ci sto pensando in questo momento, andiamo magari con qualche cosa di straniero. E guarda, vado a citare, perché mi è piaciuto molto, e ancora una volta per il sound, l'ultimo disco che ha fatto Jacob Dylan, il figlio di Bob Dylan. E così parliamo di qualche cosa anche di nuovo, okay. perché è giusto non parlare soltanto dei mostri sacri. La vita comunque va avanti, certo. le generazioni si succedono, ormai Dylan c'ha i nipotini, certo. tra un po' vedremo cantare anche i nipotini. Beh, d'altronde la nipote di André è andata all'Isola dei Famosi, quindi in realtà la vita va avanti, chiaro. Inarrestabile. Certo. Ecco, e nel caso di appunto di Jacopo Dylan di Jacopo, potremmo possiamo dire Jacopo, sì. Jacopo, potremmo chiamarlo Jacopo effettivamente. Anzi, Giacobbe, poi sì, Giacobbe sarebbe Giacobbe. Però per noi Jacopo è sempre simpatico, va benissimo lo stesso. Sempre fiorentino, molto italiano. è un disco prodotto da T-Bone Burnett, un grande produttore americano. Ha fatto dei suoni secondo me strepitosi, molto caratterizzati, molto, molto cupi, pastosi, e mi è piaciuto particolarmente ancora una volta per il sound. Quindi poi alla fine ho citato tre dischi che amo soprattutto per il sound del disco in sé, al di là delle singole canzoni. Non mi interessava tanto che nel disco ci fosse la canzone Bella X, certo, piuttosto, certo, che quella Bella X. Le sonorità ti interessano? Sono le sonorità, e sono degli esempi molto, molto interessanti secondo me, e sono andato proprio improvvisando. Si vede che questi dischi ce l'ho nel cuore in questo momento. Certamente. Quindi si è sdoganato Giacobbe dal padre, che sì, non era molto semplice. Perché un peso di quel genere è un peso. Sì, ma poi lui gli ha detto: non è facile essere figlio di uno che ha il suo nome nei libri di storia, è vero, ed è ancora vivo, è vero, e quello è fatto. Tra l'altro, è ancora vivo, ed è ancora vivo, e quello è importante. Produce ancora, fa ancora dischi, e quindi chiaramente lui poi ha trovato, penso, una sua comunque strada, dimensione, sì, personale, probabilmente più intimista, più raccolta, certo, anche nel modo di cantare. Cioè, suo padre ha una voce molto più stentoria, ancora adesso che voce ormai, poveretto, ormai è consumata completamente. Ha cantato troppo, ha fumato anche molto, certo, e bevuto forse ancora di più. Esattamente, un po' di tutto. Tutto ha confluito, adesso effettivamente il livello di timbro è rimasto gran poco, però ha ancora molta energia, molta carica. Certo. Fa il DJ, lo sai, no? Sì. In una radio americana. E quindi è collega vostro. È collega nostro. Ormai. Benissimo. Invece il figlio fa cose un attimo più raccolte, anche certo, forse certo, più intimiste, più forse in linea coi tempi, perché adesso i cantautori che ci sono in questo momento, sia americani che italiani, la chiave è un po' sempre l'intimismo. Certo. Sono sempre molto raccolti su loro stessi, sui loro sentimenti, eccetera, eccetera. E diciamo il sociale, tra virgolette, quello che si chiamava così in questo momento, è abbastanza fuori dal panorama cantautoriale, sia straniero che italiano. Anche se però devo anche dire che è così, anche su Facebook io sono in contatto con parecchi cantautori, eccetera, e vedo che ogni tanto anche nomi un po' più famosi, eccetera, questa idea di ritornare a parlare della realtà sta prendendo piede, tornando. Sì, probabilmente forse quella fase di chiusura in se stessi sta cominciando un attimo a finire, e probabilmente forse assisteremo a un altro momento in cui praticamente il personale è pubblico, è quello che si diceva 30 anni fa, buoni, abbondanti. Però sono i corsi e ricorsi storici di Vico, che secondo me aveva ragione, perché le cose tornano, insomma, non c'è niente da fare. Esatto. Quindi quarto disco dopo Jacopo Dylan. Allora dobbiamo andare per forza su un qualche cosa di vediamo un po' se mi viene in mente su un qualche cosa di italiano ascoltato di recente. Sì. Però non, da Isola Deserta non trovo niente proprio, diciamo, proprio da dire me lo voglio portare con me. Forse devo andare per forza, allora cambio strada, andiamo su qualche cosa adesso. Cosa ti ispira di più adesso? Qualche cosa più di straniero, o qualche cosa al limite che stavo, ecco, no, lo cito adesso perché lo stavo ascoltando in questi giorni qua, Disintegration, The Cure, sì. Lo stavo ascoltando in questi giorni, allora mi viene disco da citare questo perché a parte che ci sono delle canzoni molto belle, però è anche un disco molto compatto a livello sonoro, certo. Per certi versi potrebbe anche essere il difetto, nel senso che uno, se lo ascolta tutto di fila, magari può trovarlo un po' pesante, però per certi versi è un po' la sua forza, è proprio come un macigno, e da un punto di vista sonoro così artistico secondo me è molto l'opera psichedelica di Robert Smith praticamente. Sì, sì. È molto, diciamo, realizzato bene, e sono arrivati effettivamente a definire perfettamente il sound da un certo punto di vista, il suono della batteria, il suono del basso, delle chitarre, ha una sua unitarietà, ecco, certo. Quello che la forza di quel disco è che è molto unitario, non ci sono dei momenti in cui si divaga, c'è è come una specie proprio di monolito, è perfetto. Anche se Robert Smith ha saputo divagare molto, eh. Sì, sì. Era molto, cioè, ha sempre fatto dei dischi novità, cambiava in continuazione. Inserendo lì ha messo una specie di timbro. Sì, di timbro, è un grandissimo. Forse, però funziona benissimo, io lo amo molto, ma poi ci sono delle canzoni come Pictures, sì, of You, sì, Plain Song all'inizio, e quindi ci sono anche i brani che valgono, ma poi è tutto il progetto che sta molto in piedi, ecco, sono quei dischi che hanno un peso specifico loro, tali. È importante la discografia di Cure, anche dal punto di vista visivo, una bellissima copertina, ricordo all'epoca, sì. Io l'avevo preso in vinile all'epoca, adesso è stato ristampato da tempo in CD con delle sonorità, è stato pulito, come si dice, in quelle versioni deluxe, sai. Sì. No, io ho una versione in CD però non ripulita, che non forse ripulito. Assomiglia un po' al vinile, ecco, ma meglio così, meglio così. Ultimo pezzo, ultima traccia, ultimo disco che tu hai scelto di questa ideale percorso sonoro di questo periodo tuo. Allora, torno su un altro disco inglese, allora, perché anche recentemente ascoltavo So di Peter Gabriel. Ed è un altro lavoro un po' di questo tipo, lì c'è la produzione di Lanois che ha molto caratterizzato l'intero lavoro, ci sono le canzoni che funzionano, però già dalla copertina che è bellissima, è bella, cioè, la grafica ha la sua importanza, io devo dire non mi metto, mi sono messo solo sulla Muse Elettrica, sulla copertina, sì. Perché evito tendenzialmente, perché mi concentro molto sul concept e quindi poi chiaramente ritengo che poi me in copertina il disco non vendrebbe una copia in più, anzi forse ne vendrebbe uno in meno, non mi vado a spendere più di tanto su quell'aspetto, ecco. Però lì nella copertina di So, già vedendo così l'espressione che ha lui, il taglio della fotografia, il bianco e nero, cioè vedi già dalla copertina che dici, beh, qua hanno voluto fare le cose in una certa maniera, dare una direzione, ecco, è molto importante secondo me, sia a livello della grafica sia a livello delle sonorità, prendere una direzione, giusto o sbagliata che sia. Io lo faccio anche un po' nella grafica, perché negli ultimi due dischi ho cercato di creare sempre a livello grafico più o meno lo stesso concetto, giocato sul titolo, sullo sfondo, l'essenzialità, ecco, cercare l'essenzialità, anche perché poi negli arrangiamenti, a parte schiuma che è un po' elaborata, ho cercato sempre di mettere solo le note che servivano e nient'altro. E nient'altro, chiaramente. Ok, allora abbiamo finito questo nostro excursus sui 5 dischi che Ruben adesso ama particolarmente. Ti facciamo riposare un secondo, mettiamo un altro pezzo da album, la traccia numero 10, che è un pezzo bellissimo, in cui canta anche Veronica Marchi, ma ne parliamo dopo, lo sentiamo adesso. Perfetto. Ok. Vento che porti ogni novità, che cambi prospettive, tempi e spazi, che soffia le mie orecchie, calde d'Africa e d'Asia. Cosa dici che le intende non so? Cosa dici? Cos'altro mi inventerò? Contro che guardo un bimbo grande ormai, nei suoi occhi troppi eroi. Un bagliore nella luce, in questo mondo in controluce, il dolore non dà pace, in questo mondo in controluce. Un detto oscuro parla a noi, occhio per occhio, sta scritto lo sai, prova a resistergli se puoi, ti afferra e non ti molla mai. Un bagliore nella luce, in questo mondo incontro luce, e il dolore non dà pace, in questo mondo incontro luce. Ogni giorno un Cristo è in croce, in questo mondo incontro luce, una voce più non tace, ah, in questo mondo incontro luce, una voce più non tace. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. State sempre ascoltando Rock Wave con Michele Tosoni in regia e Maurizio Cazzavara alla conduzione, e con Rube stasera che sta presentando Il Rogo della Vespa, il suo quarto album, l'album del decennale. Adesso Rube, abbiamo sentito due pezzi, li puoi descrivere un momento? Sono pezzi importanti nell'album, tutti i pezzi sono importanti, però bisogna parlarne, bisogna cercare di capire perché li hai creati. Sì, in realtà poi sono anche collegati, anche sono per collegati, questo esattamente. È stato bello sentirli tutti di fila. E all'inizio abbiamo sentito Scirocco, che è questa cosa un po' strana. Inizialmente era nata soltanto con la chitarra elettrica. Io avevo realizzato un provino a casa mia, come faccio spesso, magari con le cuffie in testa come adesso, con la chitarra per non disturbare i vicini, si sente tutto in cuffia, perché se no con un amplificatore e una chitarra elettrica si protestano, chiaramente sarebbe terribile la cosa. E allora avevo realizzato questo provino tutto strumentale con questi effetti strani, e inizialmente in realtà doveva essere uno strumentale nel disco. E poi ci sono sempre quei ripensamenti nascono proprio mentre si sta lavorando in studio, perché pensavo che poteva essere il momento per parlare di un qualche cosa, per dare sempre un senso a tutto il lavoro e collegarlo alle altre canzoni. E quindi avevo buttato giù questa sorta di tra virgolette poesia, nel senso che era un testo senza pensare a una melodia né niente, e poi ha pensato potrebbe essere recitato sulla base. E la canzone si chiama Scirocco, non a caso, perché è lo scirocco è questo vento caldo sì, che viene appunto dal sud-est, e dicono tra l'altro che porti a degli sbalzi di umore, come un po' tutte quelle cose improvvise, e quindi ci stava quella canzone, perché per me il vento in generale è un po' una metafora del cambiamento. Quando sento soffiare il vento, poi tra l'altro apro una parentesi, io sono nato a Legnago nel basso veronese e il vento si sente molto raramente. Ah. Quindi quando mi capita di andare in giro di sentirlo, forse lo colgo, forse è un tuo desiderio più di altre persone, perché appunto non sono abituato e quindi ci faccio anche più caso, e alle volte mi metto lì ad ascoltarlo proprio perché sembra sempre che il vento parli, ti debba dire qualche cosa, e comunque arriva sempre per scompigliare, per portare una novità. E quindi la canzone, poi questo recitato, ha proprio questo senso, cioè di fronte al nuovo che avanza, e noi lo viviamo ogni giorno, perché ogni giorno vediamo come diciamo il quadro sociale, mondiale, economico, politico continua a cambiare con una velocità impressionante, e spesso abbiamo un senso di smarrimento. Però a questo smarrimento si cerca di reagire in qualche modo, e io alla fine della canzone dico: cos'altro mi inventerò? Perché per certi versi, per andare avanti, bisogna quasi utilizzare la fantasia o crearsi un qualche cosa di nuovo, magari di strambo, come può essere questo disco, perché effettivamente è un po' strambo nel senso positivo, tutti, perché è un sacco di input che hai messo qua nell'album. Esatto, e quindi serve appunto per andare avanti, quindi per certi versi la creatività, ma in tutti i campi, non è solo la creatività in campo così artistico, ognuno di noi in quello che fa magari ce la deve mettere, perché quando tutto cambia dobbiamo cambiare anche noi per poter stare al passo con i tempi, non possiamo fermarci sulle nostre idee, sui nostri convincimenti, sulla nostra struttura mentale che abbiamo acquisito fino adesso. Poi il senso del disco era proprio anche questo, anche la canzone di Rogo della Vespa, cioè attenzione, con il terzo millennio sta cambiando tutto quanto, tutto il panorama, le coordinate, e tutto quanto assume un altro significato, non possiamo pensare di arroccarci sulle idee nostre, giuste o sbagliate che siano, che però sono nate in un contesto diverso che adesso è mutato, e quindi noi siamo tutti in un cammino nuovo, e però dobbiamo muoverci in modo nuovo. Cioè io stesso faccio delle canzoni che 10 anni fa non avrei pensato di fare, però dico, devo uscire dall'ottica normale del cantautore, magari voce, chitarra, armonica, che fa la ballata in un certo modo. Nel disco può starci anche una cosa balorda, come può essere questo pezzo scirocco, che alla fine uno dice che cos'è, non si riesce a capire bene, una canzone, un recitato, c'è questa chitarra che è strana, che sembra non andare da nessuna parte. Poi ho cercato un po' di fare questo suono di chitarra elettrica un po' onomatopeico, se vogliamo, nel senso che voleva ricordare un po' il vento che sbatte sulle lamiere, questo suono di vibrazione. E poi a seguire c'è questo pezzo Controluce, e che in realtà ritorna sempre sull'idea del dubbio, comunque sul bisogno di superare certe difficoltà, certe visioni. Io faccio riferimento al detto occhio per occhio, non detto classico, no? Che poi esiste su scala personale, e quante volte noi poi lo applichiamo proprio su scala personale, qualcuno ci fa qualche cosa che non ci piace, non vediamo l'ora di restituirglielo, sempre con gli interessi, attenzione, certo, perché si tende sempre a caricare, no? In questi momenti non si usa mai la bilancia, perché si agisce di reazione emotiva in sostanza, ma poi lo si applica a livello internazionale, no? Tu fai questo, io ti faccio quest'altro, e poi questo si è sempre visto, lo vediamo anche comunque in questi giorni, e quindi anche qui l'esigenza di superare quella mentalità di fronte a che cosa? Quello che poi è il dolore nella vita che noi vediamo tutti i giorni, perché ogni giorno c'è un Cristo in croce, che non è soltanto, diciamo, l'immagine religiosa, ma come si dice poi nel parlato quotidiano, prendendo ad esempio chiaramente la vicenda del Vangelo, però si dice quello lì è un Cristo in croce, per dire ne ha tante di sfortune e ogni giorno ce n'è uno da qualche parte nel mondo. Siamo sicuri che la realtà è questa qua, di fronte a questa realtà che è anche dolorosa si cerca di superarla e poi la musica cerca di portare verso questa tra virgolette trascendenza. Io ho creato questa coda strumentale dove tutto poi si interseca con queste sonorità di Mellotron che avevo a disposizione in studio, questo strumento storico meraviglioso che era stato creato per simulare gli archi. Certo. Per questo brano non avevo gli archi sotto mano e allora ho utilizzato questo magnifico simulatore. E poi ho chiamato Veronica Marchi, cantautrice veronese, perché serviva una voce che facesse da contraltare alla mia sui ritornelli. Lei aveva già cantato in un brano del mio disco precedente, sì, che era In Luce. Esattamente. E questo qui, siccome il disco era un po' più pesante, lì eravamo in un momento di illuminazione e qui invece c'era proprio l'esigenza di esprimere la difficoltà di vedere la realtà quando, diciamo, è illuminata da punti di vista diversi, per cui come un'immagine in controluce non si riesce a vedere bene. C'era un po' questo giochetto interno, se vogliamo, visto che è cantato in luce adesso canta in controluce. Chiaramente. Ok, 23, 24 e 25 in questo preciso momento, adesso riposiamo la tua voce nel senso di parlato, la facciamo sentire nel senso di cantato. Sì, si stanca forse anche di meno. Ecco, esattamente. Cosa ci fai sentire adesso, Ruben? No, faccio questo pezzo che si chiama Babe, che si collega un po' anche alla canzone precedente, così pornomane. E poi mi è piaciuto, sono quelle famose sottotracce che si rincorrono nel disco di cui parlavamo prima. E la canzone fa così. Slacciami, baby, slegami, baby, ho di te un se tra noi il gioco finisse. Toccami, baby, cullami, baby, ho di te un se tra noi il gioco finisse. Non avrò che cure per te. Oggi impari a volare sul velluto, viva con me. Oggi tu lo impari ad amare. Chiedimi di mordimi, baby, ho di te un se tra noi il gioco finisse. Balli su due tacchi, non hai di che coprirti oramai. Fiduciosa ti chinerai, è solo respirare. Blu Radio Veneto, è come non l'hai mai sentito. SMS 346 2320 033. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. stavolta era un blues, non era troncato, anche se il troncato c'era alla fine però era un blues assoluta, tendenzialmente un blues. Sì, ritorna sempre in quello che faccio, è una delle mie radici, il rock, il blues, il folk, il country, poi alla fine ritornano sempre a livello musicale. Sì, cerco di mescolarle, però sono proprio le mie pietre miliari, insomma, dove i miei punti di riferimento. Adesso diciamo le cose secondo determinati schemi. Chi ha partecipato, che non abbiamo citato prima, nella totalità al disco? Allora, vediamo un po'. Innanzitutto direi Carlo Poddighe, che è suonato qua da noi anche. Bresciano, è un polistrumentista, bravissimo. Lui è un chitarrista innanzitutto, però nel disco ha suonato la batteria, ha suonato il glockenspiel, la chitarra classica, elettrica, acustica, la pedal steel e senz'altro il Fender Rhodes, le percussioni, la batteria. Quindi l'ho sfruttato, ma è un piacere averlo, perché poi risolve tutta una serie di problemi in studio, perché può occuparsi di varie parti strumentali e poi siccome le suona tutte bene, e questo è l'aspetto interessante, almeno sai che hai un risultato garantito. Poi mi hanno anche domandato, sì, ma poi dal vivo come fai? Perché non lo possiamo scindere. Certo. E in realtà poi dal vivo si crea una cosa completamente diversa, suoniamo in trio acustico, i pezzi vengono arrangiati in modo diverso, hanno una sonorità diversa rispetto al disco, è un altro mondo. Però quando faccio il disco penso a fare il disco, non penso mai al live, penso che sono due situazioni completamente diverse da gestire in modo diverso. Poi ha suonato comunque la chitarra elettrica anche Luca Tacconi, che ha registrato il disco presso il suo studio sotto il mare, è a Povegliano, ha questa magnifica sala di ripresa grandissima, che è responsabile un po' del sound, perché c'è molta apertura a livello di riverbero naturale nel disco, e poi questo lo ha caratterizzato anche molto, soprattutto il suono della batteria. Io venivo dal disco precedente dove abbiamo registrato in una sala più piccola con un effetto della batteria più garage, diciamo, e invece volevo degli ambienti più ariosi, perché di musica, magari di tracce strumentali ce n'erano poche, però ci doveva essere un ambiente comunque ampio, anche perché poi andavo a parlare nel testo di cose più dure, però mi interessava una certa spazialità e penso che poi l'abbiamo anche raggiunta. E poi voglio ricordare Salvatore Maiore, che ha suonato il violoncello, e abbiamo avuto poi Carlo Cantini, che ha suonato i violini in schiuma, ci sono tutte queste parti complicatissime di cui loro si sono occupati. E per finire voglio citare e ringraziare anche tre coriste, ecco, importanti, fondamentali, e che sono Nadia Bonizzato, Lidia Lorenzoni e Valentina Meneghelli, che hanno fatto il coro su Uno del Giro, che è il pezzo finale del disco, arrangiato da Laura Facci, che è poi la voce recitante che abbiamo sentito su Scirocco. Quindi alla fine poi tutto torna, nel senso che poi io ho tra virgolette sfruttato un po' i talenti che avevo sotto mano. È un po' una mia peculiarità questa, cioè utilizzare bene, spero bene, il lavoro degli altri. È una cosa tra l'altro che mi piace anche fare, io ho sempre un po' un sogno nel cassetto, penso quando sarò grande, che non è adesso, adesso sono ancora piccolino tutto sommato e devo ancora farmi, però quando sarò grande mi piacerebbe molto fare il produttore, cioè lavorare per gli altri artisti e per sviluppare il loro progetto artistico. Perché poi a furia di lavorare su una materia molto grezza come la mia, sono convinto che se avessi per le mani la materia buona potrei ottenere risultati molto migliori. Precisamente, ho capito. E dove si può trovare il tuo disco, Ruben? Allora, innanzitutto si trova alla Fnac di Verona, perché poi vengo da Verona e quindi nel negozio buono cittadino, potremmo dire. Esatto. E poi si trova su iTunes, perché poi le vendite oggi si fanno soprattutto su internet, quindi iTunes e i vari portali digitali che ci sono. C'è anche un distributore che è Azzurra Music, che sta cercando di far arrivare anche il disco nei negozi, quindi se magari qualcuno ha sotto mano un negozio di dischi può andare e dire voglio Rogo della Vespa distribuito da Azzurra Music. A quel punto il negoziante sa anche il distributore e non ha più scuse, perché altrimenti se non si dice il distributore uno dice ma non lo so, non ne ho mai sentito parlare. Certo. Se ha il distributore a quel punto si mette attaccato a internet e vede che cos'è, perché oggi nessuno può più dire io questa cosa non lo so, se hai un computer sotto mano basta che cerchi e la trovi immediatamente. Al 99% trovi tutto quanto. E il costo della grafica l'hai fatto tutto te, abbiamo citata prima. Dobbiamo citare chi si è occupato della realizzazione tecnica del libretto, esatto, che è Silvia Mirandola, e su input che ho dato io, nel senso che io avevo un'idea di massima, mi piaceva questa idea del dorato, doveva essere tutto dorato, e questo, questo nero su oro. Poi c'è una canzone dove parlo appunto dell'oro nero, dell'oro giallo, quindi ritornava anche questo, questo discorso. Volevo dare una veste sontuosa così a questo disco decennale. Poi magari lo ristampiamo e lo facciamo nella, nella carta riciclata, eccetera. Però chi ha preso le prime copie ha in mano, diciamo, il lavoro fatto così in tutto il suo splendore. E quindi giusto ricordare anche chi ha lavorato per la grafica, Silvia Mirandola. Benissimo, abbiamo detto tutto quello che ti doveva dire nella costruzione del disco. Adesso sentiamo un altro pezzo, sempre dal vivo, sono le 23:34. In scaletta che cosa c'hai adesso? C'ho una canzone che si chiama Le cose si mettono male, però non preoccupatevi perché la canzone dura poco. Io l'ho già eseguita dal vivo, non è capitato niente di terrificante in studio, quindi non porta particolarmente sfortuna come si potrebbe pensare. Ok, adesso la sentiamo assieme. Da Ruben, assolutamente live a Rock Wave stasera, 9 marzo. C'è qualcosa che non capisco, c'è qualcosa che non soffia nel vento, c'è qualcosa a cui non mi arrendo, c'è qualcosa che mi rode, lo sento, è questa cosa che mi brucia dentro. Quanto tempo sono stato al mondo, cosa ho visto e cosa ho fatto intanto, sono forse diventato più attento, o sto diventando vecchio e stanco, è questa cosa che mi brucia dentro qui. Le cose si mettono male, lo capisci da te. Qui le cose se ne vanno a puttane e non si sa il perché. Molti aprono la bocca e parlano, molti chiudono il cervello e urlano, molti scambiano realtà e sogno, la realtà fa male e male non vogliono, è questa cosa che mi brucia dentro qui. Le cose si mettono male, lo capisci da te. Qui le cose se ne vanno a puttane, ora so anche perché. Ora so anche perché. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Posso dire una cosa, Rue? Quasi barrettiano l'inizio, molto scheletrico, assolutamente scheletrico. Poi ha preso un po' ritmo il pezzo, poi ritornando scheletrico. Testo decisamente particolare, un po' oscuro, molto tagliente su certe cose. Sì, e poi io avevo così un po' paura a presentare una canzone che si chiama Le cose si mettono male, perché intanto pensavo questo non può essere il singolo del disco, perché vai in una radio e dici ho questa canzone molto allegra che si chiama Le cose si mettono male, dicono non la passiamo perché come minimo due secondi dopo i microfoni magari non vanno. Per il momento tutto sta funzionando, tutto funziona. Tutto sommato forse la canzone ha una sua valenza anche positiva, perché parto un po' sempre dal, dal discorso che nel momento in cui si analizza la realtà e si vedono anche tutti i difetti che la realtà ha, questo è il primo passo per poi cercare di cambiarla. Penso che il cambiamento nasca sempre da una consapevolezza, sia un cambiamento sul piano sociale che un cambiamento sul piano personale. Poi, perché ci sia un cambiamento sul piano sociale, occorre che ci sia prima il cambiamento sul piano personale, però diciamo deve partire da un contatto con la realtà molto forte. E perché nel momento in cui invece si pensa al cambiamento già pensando a quello che sarà, però non si tiene conto dei dati di partenza, si può arrivare a delle conclusioni che poi magari sono anche spiacevoli, non sono quelle che sono magari si pensavano, perché magari quante volte si è detto ma io non pensavo che sarebbe andata a finire così. Però se uno ci pensa un attimo prima può evitare di incorrere in questo discorso. Poi la vita, per carità, prende le pieghe più inusuali, certo. Può diciamo l'inaspettato è sempre l'imprevedibile, è sempre là davanti o da scorso appena dietro l'angolo. Dietro l'angolo, però magari se uno pensa dietro l'angolo può esserci l'imprevedibile, lo prevede, certo. E quindi questo è già un atteggiamento concreto. Io devo dire che tendenzialmente sarei un tipo abbastanza astratto, ragazzo mi piaceva molto la filosofia, uno diciamo con la testa fra le nuvole. Poi il tempo mi ha portato lentamente a mettere sempre di più i piedi per terra. Adesso devo fare lo sforzo contrario, invece cercare lo slancio, cerco di realizzarlo tramite la musica, per quello che naturalmente mi può dare, soprattutto quello che può dare a me rispetto a quello che posso dare io a lei. Ecco, sono sempre in debito con la musica, certo, da questo punto di vista. Dai discorsi che hai fatto adesso, che hai fatto all'inizio di trasmissione, si capisce che questo è stato un disco decisamente sofferto nel senso positivo. Hai scavato assolutamente. Sì, c'è stato un mio amico che mi ha scritto su Facebook proprio quello che dici te, è il lavoro di una persona che ha molto cercato, molto ha trovato scavando dentro di sé, quindi effettivamente c'è questa ricerca comunque interiore che è venuta fuori, di cui io non ero consapevole comunque nel momento in cui l'ho fatto. Io pensavo a fare un disco, cioè certo, a fare musica, a fare mettere delle cose interessanti a livello sonoro, eccetera eccetera, e magari certe cose che ho scritto arrivo a capirle adesso a distanza anche di tempo. Magari sono anche delle cose molto scarne, diciamo, che però hanno un loro significato e che sul momento magari io stesso non avevo colto. E lo scavare nel tuo io è anche una trasparenza della musica, che è musica molto frastagliata, in alcuni momenti delicata, chiaramente lineare, ma in altri momenti no, complicata. Ci sono dei momenti ruvidi, ruvidi, questo ruvidi. Soprattutto è uno dei momenti un po' più difficili, perché anche a livello armonico c'è questo accordo che io faccio all'inizio che in realtà è quello che si chiamava un po' il trillo del diavolo, quell'armonizzazione un po' strana che addirittura era vietata nel Medioevo, perché poi nel Medioevo avevano tutte queste fisse, sì, esatto. Non si potevano fare gli accordi di settima perché si diceva che erano troppo sensuali. E questa armonizzazione qua no, è il famoso diabolus in musica, cioè questa figura musicale che si diceva era vietata proprio perché armonicamente poi ricordava qualche cosa di strano e quindi così è poco tollerato, fuori dalle regole. Io ce l'ho messo proprio, è un classico, ce l'ho messo proprio per dire attenzione, adesso vado a parlare di cose così un po' difficili o comunque ruvide e poco piacevoli, e comunque c'è sempre questa situazione di incertezza e di dubbio, perché dico appunto c'è qualcosa che non capisco alla fine, poi magari arrivo a capirlo, magari penso che tutti i mali derivano dal fatto che molti parlano e non pensano a quello che stanno dicendo in quel momento. Questo è vero. può capitare. È una constatazione, mi rendo conto, molto terra a terra, magari non è quella chiave di volta a cui uno potrebbe pensare, però noi oggi come oggi sentiamo tantissima gente che in tutti i campi parla, lo stiamo facendo anche noi, certo, adesso, per carità. Però nessuno di noi pensa di avere la verità in tasca, mentre quello che noi sentiamo all'esterno sono sempre persone che dicono la verità è questa, e molti cercano di imporcela sempre di più a vari livelli, insomma. Alla fine, poi, anche se io raggiungo una certezza, è sempre una certezza provvisoria ed è sempre limitata, e soprattutto non la vado a imporre più di tanto agli altri, se non musicalmente. Però il mio compito finisce lì. Per fortuna, dico per fortuna. Certamente. E vorrei dirti chiederti una cosa. Tu hai detto che live siete in tre in fase acustica, sì, praticamente. Quindi i pezzi sono costruiti in fase acustica, come stasera, chiaramente più ampliati essendo in tre. Sì, c'è il vantaggio di avere il contrabbasso, chiaramente suonato da Leotta, che ci dà parecchia spinta sul piano ritmico, e poi abbiamo la chitarra appunto di Podig. Diventiamo questo trio che interagisce. Poi noi abbiamo nello spettacolo molti momenti di improvvisazione. A me piace molto l'improvvisazione, ecco, magari rispetto al cantautore tradizionale che ha la sua canzone, che si sa che è strutturata in un certo modo, inizia sempre nello stesso modo e finisce sempre nello stesso modo. Tu, ecco, sei un cantautore atipico, quindi. Sì, anche da questo punto di vista, perché quando suoniamo dal vivo io so sempre il pezzo come comincia, però ma mai i come finali finisce. Non li proviamo mai, non li abbiamo mai provati, e li improvvisiamo sul momento. Qualche volta vengono fuori anche bene, devo dire, qualche volta vengono fuori peggio, però io penso che ci debba essere sempre nella musica fatta dal vivo, ma anche in studio, il fattore avventura, il fattore sorpresa deve esserci sempre, anche per chi suona, perché si deve divertire, soprattutto lui, per dare poi questo senso di divertimento agli altri e coinvolgere anche gli altri. Però per me la musica è anche molto avventura, si sa dove si parte quando lo si sa, però è bello sapere che il finale sarà guardandosi negli occhi e cercando di capire l'ultima nota che uno farà per cercare di accompagnare l'altro. È un'unità, che in questo trio che si muove, per fortuna in tre e sul palco, se ci sono i riflettori che sono abbastanza forti, ci si riesce a guardare in faccia. Certo. Noi finiamo molto spesso i brani guardandoci in faccia fra di noi, oppure magari non ci guardiamo, però andiamo più o meno a caso, a feeling, come si dice. È un po' di tempo che suoniamo insieme, quindi qualche volta facciamo anche di finali che sembrano studiati, ma posso garantire che è tutto improvvisato. Esattamente in quel momento lì che si suona. 23:45, abbiamo quasi finito, non propriamente, abbiamo ancora un quarto d'ora scarso. Sentiamo un altro pezzo dal vivo. Cosa hai scelto adesso? Il pezzo finale del disco, che è una cosina anche un po' divertente, forse ci sta dopo. Sì, ci sta sicuramente. Le cose che abbiamo detto. Questo appunto è uno del giro. Sono uno del giro, non mi sento divino, non sono neppure carino, ma sono entrato nel giro. Sono uno che canta, sono uno che suona, sono uno che prova, e prova e riprova, e sono andato anche a scuola, ho imparato qualcosa, mi è servito non poco, per stare al gioco, mi sono spaccato la schiena, ho pure i cali alle dita, ho fatto tanta fatica, che vuoi che ti dica, cito dentro di brutto. Faccio di tutto per tenere contento il capoccia di turno, e sono uno del giro, non mi sento divino, a volte faccio il cretino, ma sono entrato nel giro, e sono andato anche a scuola, ho imparato qualcosa, mi è servito non poco, per stare al gioco. Mi sono rotto la schiena, ho pure i cali alle dita, ho fatto tanta fatica, che vuoi che ti dica? Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ci stiamo avviando verso il finale, anche se Ruben poi c'è una sorpresa per noi. Noi di una certa generazione che abbiamo determinati grandi miti. Adesso sta cercando il testo di questo grande mito. Beh, ne parliamo fra qualche secondo. Questo è un pezzo molto divertente. E sono nato in modo divertente, Rube. Sì, perché ci voleva... scacciapensieri. Esatto, esatto. Proprio hai detto la parola giusta. Cioè, alla fine del disco ho pensato ci vuole un qualche cosa per un attimo... stemperare. Per stemperare, per mollare, perché il pezzo precedente Contro Luce, che è quella era chiusura... molto bello, molto chiusura, bello anche dal punto di vista della complessità degli arrangiamenti. Esatto, estremamente complesso. Alla fine di un disco così, così gravido, posso dire, di pensieri e cose varie, ho pensato ci vuole qualche cosa di più allegro. Però è anche un pezzo, anche questo, molto personale, perché in realtà parla di me nel mondo della musica, e dico a un certo punto sono entrato nel giro anch'io, poi cerco di vedere questa cosa nel modo più ironico possibile, perché poi quello che dico, sì, poi alla fine magari comunque anch'io mi sono fatto una scuola, così ho imparato qualche cosa, ma nella musica cosa mi è servito? Spesso e volentieri, lo devo dire, per stare a gioco soprattutto con i titolari dei locali, ecco, con cui si ha sempre un rapporto abbastanza conflittuale. Hai avuto difficoltà nel corso di questi 10 anni a suonare nei locali? Beh, direi che io ho sempre suonato, diciamo, però incontrando le difficoltà che incontrano un po' tutti, perché chi propone musica dal vivo sua trova innanzitutto l'ostracismo, direi, della metà dei gestori di locali. Certo. Poi ne trova l'altra metà, di cui forse un 10% ha dei riferimenti musicali, quindi può apprezzare e capire quello che fai. Gli altri possono dire sì, vabbè, ti faccio fare una serata e poi chi si è visto si è visto. Poi i titolari dei locali ragionano molto con un'ottica di tipo schiettamente commerciale, non pensano mai alla musica come a un qualcosa che può crescere nel locale stesso. E quindi diciamo che anche un musicista può crescere attraverso il locale, non è soltanto il locale che vende 2 birre in più perché ci sono gli amici del musicista che vengono, ma se il musicista ha possibilità di tornare nel locale e di farsi sempre di più le ossa, cresce lui, crescendo lui cresce il pubblico, e quindi è più pubblico che entra nel locale a prendere la birra. Ecco. Però questo circolo virtuoso, non vizioso, ma virtuoso, non è più di tanto tenuto presente dai titolari dei locali, che pensano subito immediato all'incasso. Sì, ma poi all'incasso, diciamo, fatto immediatamente. Io dico sempre, come qualsiasi attività anche di imprenditoriale. Sì. Qualsiasi, dal vendere questo piuttosto che quest'altro, eccetera, bisogna un po' partire con l'idea che il primo esercizio è in perdita, il secondo, se va bene, è in pari, forse col terzo anno cominci a guadagnare, però poi costruisci. La maggior parte invece dicono: no, io dalla prima serata voglio già che con le birre vado a posto. È fantascienza, diciamocelo subito. Le realtà musicali importanti poi sono cresciute nel tempo, e poi nel tempo però diventano importanti e fanno anche gli incassi, però all'inizio bisogna soffrire, insomma, c'è poco da fare. E quindi questo è il questi sono i 10 anni che hai avuto queste esperienze praticamente. Sì, ho visto questo, ho visto altro, un po' di tutto, però alla fine, quando dico un po' per stare al gioco, perché bisogna cercare sempre un minimo di compromesso fra le tue esigenze e quello del titolare del locale. Magari sei stanco perché hai suonato 1 ora e mezza, però vengono lì e ti dicono: beh, ma ci fai qualche altro pezzo, e va bene, allora tu suoni un'altra 1 ora e mezza. Però mi è capitato. Ti è capitato? Sì, sì, mi è capitato. E, lì c'è proprio anche un po' il gioco di venirsi incontro con le rispettive esigenze, però a un certo punto anche tu come musicista hai un po' le tue, allora fai anche tra virgolette dei compromessi, perché in realtà si fanno, chi fa il musicista, chi fa il cantautore, in generale l'artista, i compromessi li fa. C'è niente da fare, poi ognuno sceglie quelli che può fare, quelli che si possono fare e quelli che non si possono fare, però la vita è fatta di incontro, di esigenze, non ci si può arroccare solo nelle proprie e dire: ma io, devono essere salvaguardate solo le mie e non le tue, perché io sono molto contrario all'idea un po' così dell'artista chiuso nella sua torre d'avorio che lavora nel suo magnifico mondo. L'artista è nella realtà, nella società, quando esce, esatto, vai nei locali e ti impatti comunque con la realtà, e devi tenere conto delle esigenze degli altri, non solo delle tue. E un'ultima cosa ti vorrei chiedere, e proprio sentiamo questo pezzo meraviglioso del grandissimo Leonard Cohen, lo possiamo già svelare. Sì. Tu hai parlato di improvvisazione, a me veniva in mente un discorso che fa Dylan spesso e volentieri, lo sai, beh, forse lo sai meglio di me, ma forse tanti ascoltatori non lo sanno. Quando che Dylan comincia a suonare, arriva sul palco, i suoi musicisti non sanno assolutamente nulla di quello che lui vuole suonare. Sì, ma spesso e volentieri non lo sa neanche lui. Esatto, questo è vero. E questo è il fatto. Ma lui ha anche questo atteggiamento in studio, non soltanto sul palco, ma anche perché è proprio... lui è incapace di eseguire la canzone due volte nello stesso modo, è proprio è una sua caratteristica, come anche di altri musicisti, ma lui fosse anche più esasperata. Ecco perché poi abbiamo di canzoni sue varie take, certo, completamente diverse, che lui poi furbamente nel corso degli anni ributta fuori, perché ha tutto questo patrimonio di alternative take per ogni brano, perché ogni volta che lo fa lo pensa in una maniera completamente diversa, lo canta in modo diverso, lo approccia in modo diverso, e quindi D'Antoni lui stesso in una sua intervista tempo fa diceva: sì, io ho sempre fatto canzoni in modo diverso, dischi in modo diverso, sempre quasi buone la prima live in studio, perché nessuno vuol vivere lo stesso giorno due volte di fila. E questo è il suo approccio, cioè ogni momento ha una sua preziosità e lui sfrutta esattamente così quello che dicevamo prima, l'attimo fuggente che bisogna cogliere sul palco che come in studio. Poi anche io questa sera ho cercato di cogliere l'attimo fuggente perché mi hai chiesto i dischi e adesso ho pensato adesso a qualche cosa mi devo far venire ed è stato bello, è stato spontaneo, non preparato assolutamente. Facciamo una piccola presentazione e poi concludiamo la trasmissione. Perché hai scelto questo meraviglioso pezzo di Leonard Cohen? Perché è una canzone che ho sempre sognato così di fare dal vivo, non l'ho mai suonata dal vivo, né in concerto né in altre appunto situazioni. Però tra l'altro Cohen io l'ho scoperto da poco perché conoscevo un po' tutti i cantautori e alla fine, come una specie di percorso, anche lì con così casuale e così legato così a elementi così di tutte estemporanee, sono arrivato anche a Cohen. Mi piacciono tante canzoni, questa in modo particolare per l'atmosfera che ha, per le immagini che ricorrono nel testo, questa torre della canzone in cui lui così si immagina, un po' vecchiotto ormai con i capelli grigi, però ha passato una vita a scrivere canzoni, quindi si immagina anche in buona compagnia perché cita Hank Williams, certo, e quindi diciamo un qualche cosa che sta proprio alle radici. Poi alla fine da queste radici derivano un po' tutti i cantautori, che sia Hank Williams, Woody Guthrie, cioè queste persone sono diciamo un po' i capostipiti, almeno le persone di cui conosciamo nome e cognome, perché poi l'arte popolare chiaramente si avvale di tutta una serie di persone di cui noi non sapremo niente, però che hanno tramandato. Arriva però a un certo punto una persona che per un motivo o per un altro viene ricordata nome e cognome e allora si dice il caposcuola è lui. Però lui in realtà ha sentito tante altre persone di cui noi non sappiamo niente. Poi alla fine tutti i cantautori siamo tutti eredi dei trovatori, certo, prima certo, ancora certo, degli Aedi greci e compagnia. Certamente. Quindi è una storia sempre che continua con diverse modalità, però lo spirito un po' è sempre quello, legare la parola con la musica, e Cohen è stato un maestro in questo. Certo, è l'ultimo pezzo che hai fatto prima di concludere. L'hai cantato da oboe, mi sembrava, in alcuni momenti. Ah, era un pezzo divertente, sì, però l'hai interpretato da oboe. Sì, sì, ma effettivamente molto, anche questo lo farò molto da oboe, perché è la prima volta che lo suono, c'è questo aspetto comunque è sempre molto improvvisato, molto estemporaneo in quello che si fa, ecco. Bene, grazie a Rube, grazie che ha presentato totalmente, abbiamo presentato totalmente il suo album, un nuovo album, Il Rogo della Vespa, che possiamo trovare, come abbiamo detto, a Fnac in tanti negozi similari e con la distribuzione dell'Azzurra Music. Grazie a Michele Tosò in regia, grazie a Roberto Bardi che ha seguito le webcam. Domani abbiamo un altro concerto dal vivo con un musicista di Mestre, un cantautore che presenterà un suo album dalle 9 alle 10:30. Grazie a Rube, e stasera terminiamo con quale pezzo di Leonard Cohen? Lo ripetiamo? Tower of Song. Grazie a tutti e buonanotte. When my friends are gone and my hair is green, hiking in the places where I used to play, and I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I hear him coughing all night long. Oh, 100 flowers above me in a tower of song. I was born like this, I had no choice. I was born with a gift of a golden voice and 27 angels from the great beyond. They tied me to the stable right here in the Tower of Song. So you can stick your little pins in that voodoo doll. I'm very sorry, baby, doesn't look like me at all. I'm standing by the window where the light is strong. They don't let a woman kill you, not in the Tower of Song. Now you can say that I've grown bitter, but of this you may be sure. The rich have got the channels in the bedrooms of the poor, and there's a mad judgment coming, but I may be wrong. You see, you hear these funny voices in the Tower of Song. I see you standing on the other side. I don't know how the river got so wide. I loved you, baby, way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed, but I feel so close to everything that we lost. We'll never have to lose it again. Now I bid you farewell, I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to the tower down the track, but you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. Yeah, my friends are gone, my head is gray, aching in the places where I used to play. I'm crazy for love, but I'm not coming on. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song.